Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge La sovrana lettrice di Alan Bennett. Traduzione di Monica Pavani. Sarebbe opportuno, disse l'attendente, che Sua Maestà vedesse Sir Claude in giardino. In giardino? All'aperto, Maestà, all'aria fresca. La regina lo guardò. Intende dire che puzza? Così sembra, Maestà. Poverino. A volte la regina si chiedeva se pensavano che non vivesse anche lei su questa terra. No, deve salire qui. Quando però l'attendente si offrì di aprire la finestra, lei non obiettò. Per quale motivo vuole vedermi? Non ne ho idea, maestà. Sir Claude entrò con i suoi due bastoni, chinando il capo sull'uscio e di nuovo quando Sua Maestà gli diede la mano, facendogli cenno di sedersi. Anche se la regina continuò a sorridere imperterrita, l'attendente non aveva esagerato. Come sta, Sir Claude? Benissimo. E lei, maestà? Benissimo. La regina rimase in attesa e Sir Claude, che da autentico cortigiano non avrebbe mai introdotto per primo un argomento, fece lo stesso. Per quale motivo voleva vedermi? Mentre Sir Claude cercava di fare mente locale, la regina ebbe modo di osservare la sottile barriera di forfora che gli si era raccolta sotto il colletto del cappotto, le macchie d'uovo sulla cravatta e lo strato di sebo accumulatosi nel grande orecchio pendulo. Se una volta Sua Maestà sarebbe stata superiore a simili debolezze che non avrebbe neanche notato, adesso le si imponevano alla vista, minando la sua compostezza e addirittura addolorandola. Povero uomo, pensare che aveva combattuto a Tobruk. Questo doveva annotarlo. Lei legge, maestà. Chiedo scusa? Sua maestà ha cominciato a leggere. No, Sir Claude, noi abbiamo sempre letto, solo che ultimamente leggiamo di più. Ma certo, adesso aveva capito perché Sir Claude era venuto e chi l'aveva mandato. E se all'inizio aveva provato solo compassione per quel testimone della sua esistenza, lo annoverò subito tra le fila dei suoi persecutori e si ricompose. Trovo che la lettura di per sé non sia affatto nociva, maestà. Ci fa piacere sentirglielo dire. A patto che non venga portata agli estremi. È lì il pericolo. Vorrebbe dire che dovremmo limitarci? Oh, Sua Maestà ha condotto una vita talmente esemplare. Il fatto che sia la lettura ad averla tratta è marginale. Se si fosse dedicata a qualsiasi altro passatempo con altrettanto fervore, avrebbe suscitato molta disapprovazione. Può darsi, ma aver passato la vita a essere irreprensibile non ci sembra un gran vanto. A Sua Maestà sono sempre piaciute le corse dei cavalli. Vero, solo che adesso non ci dicono più molto. Oh, disse Sir Claude, che peccato. Poi però intravide un possibile punto d'incontro fra corse e letture. Sua Maestà la regina madre era una grande ammiratrice di Dick Francis. Sì, disse la regina. Ho letto un paio di libri suoi, ma mi è bastato. Swift invece ha scritto delle cose stupende sui cavalli. Sir Claude annuì con aria solenne, non avendo letto Swift ed essendogli ormai evidente che non stava andando a parare da nessuna parte. Rimasero seduti in silenzio per un attimo, abbastanza lungo perché Sir Claude si addormentasse. Questo era capitato raramente a Sua Maestà e quelle volte un ministro le si era appisolato di fianco durante una cerimonia, ad esempio, aveva reagito con fastidio. Anche a lei veniva spesso sonno e a chi non sarebbe venuto col lavoro che faceva. Ma adesso, invece di svegliare il vecchio, rimase ad ascoltare il suo respiro difficoltoso e a chiedersi quanto tempo le restava prima di essere colpita da simili infermità. Sir Claude era venuto con un messaggio, lei l'aveva capito e gliene aveva voluto per questo, ma forse il messaggio era lui stesso, un presagio del futuro ingrato che la aspettava. La regina prese il taccuino dallo scrittoio e lo fece cadere per terra. Sir Claude si svegliò annuendo e sorridendo come se stesse approvando qualche cosa che lei aveva appena detto. «Come procede la sua autobiografia?» chiese la regina. Sir Claude stava scrivendo le sue memorie da tanto di quel tempo che erano diventate la barzelletta del palazzo. «A che punto è arrivato?» «Oh, non è in ordine cronologico, maestà. Faccio un pochino tutti i giorni.» Non era vero. E fu solo per prevenire l'ennesima domanda inquisitoria della regina che Sir Claude a quel punto chiese: «Sua maestà non ha mai pensato di scrivere?» «No», disse lei mentendo. «Non ho il tempo.» «Ma Sua maestà per leggere l'ha trovato.» Questo era un rimprovero e come tale le giunse abbastanza sgradito, ma per il momento lasciò correre. «Che cosa dovrei scrivere?» «Sua maestà ha avuto una vita interessante.» «Sì», disse lei, «certo.» Sir Claude, a dire il vero, non aveva idea di cosa avrebbe dovuto scrivere la regina, né se davvero fosse il caso che lo facesse. Gliel'aveva suggerito solo per distoglierla dalla lettura e perché, stando alla sua esperienza, raramente si concludeva qualcosa con la scrittura. Era un vicolo cieco. Lui aveva cominciato da 20 anni e non aveva ancora messo insieme 50 pagine. «Sì», disse Sir Claude con determinazione, «Sua maestà deve scrivere. Ma se posso darle un consiglio, maestà, non cominci dall'inizio. È l'errore che ho fatto io. Parta da metà. La cronologia è un grande deterrente.» «Aveva nient'altro da dirmi, Sir Claude?» La regina fece il suo sorriso ampio. Il colloquio era finito. Come Sua maestà riuscisse a trasmettere quel segnale era sempre stato un mistero per Sir Claude, eppure era chiaro, come se suonasse la campanella. Mentre l'attendente apriva la porta, Sir Claude si tirò in piedi a fatica, si inchinò e non appena raggiunse la porta, si voltò e chinò di nuovo il capo. Poi si trascinò per il corridoio con i suoi 2 bastoni, uno dei quali gli era stato regalato dalla regina madre. Rientrata nella stanza, la regina spalancò la finestra per arieggiare un po'. Tornò l'attendente e lei, con un'occhiata di disapprovazione, indicò la sedia dove si era seduto Sir Claude. Sulla fodera di raso c'era una chiazza umida. Il giovanotto portò via la sedia in silenzio, mentre la regina prendeva il libro e il cardigan, accingendosi ad andare in giardino. Quando l'attendente fu di ritorno con un'altra sedia, lei era già uscita. Con l'abilità derivata dalla lunga pratica, rassettò velocemente la stanza, notando subito che il taccuino della regina era rimasto per terra. Lo raccolse e per un attimo, prima di rimetterlo sullo scrittoio, si domandò se in assenza di Sua Maestà non potesse dargli una sbirciatina. Se non che, proprio in quel momento, lei ricomparve sulla porta. «Grazie, Gerald», disse tendendo la mano. Lui le porse il taccuino e la regina uscì. «Merda!» disse Gerald. «Merda, merda, merda!» Aveva le sue buone ragioni per imprecare, perché nel giro di qualche giorno non sarebbe più stato a servizio di Sua Maestà e, anzi, nemmeno a palazzo, ma sarebbe tornato al suo reggimento ormai dimenticato, col quale avrebbe arrancato sotto la pioggia per la brughiera del Northumberland. La velocità e la spietatezza della sua cacciata quasi Tudor trasmisero il messaggio giusto, come avrebbe detto Sir Kevin, e soffocarono sul nascere ulteriori dicerie sulla demenza senile di Sua Maestà. La regina era tornata in sé. Niente di quello che aveva detto Sir Claude sortì alcun effetto, ma quella sera la regina si ritrovò a pensarci nella Royal Albert Hall, dove si teneva un concerto per il suo 80° compleanno. In passato la musica non era mai stata uno svago per lei. L'aveva sempre sentita un po' come un obbligo e di fatto conosceva solo il repertorio dei concerti cui aveva dovuto presenziare. «Quella era una voce», pensò la regina sentendo un ragazzo suonare il clarinetto. «Mozart, una voce che tutti in sala conoscevano e distinguevano nonostante il compositore fosse morto da 200 anni». E si ricordò di quel personaggio di casa Howard che nella sua testa metteva le figure a Beethoven durante il concerto nella Queen's Hall descritto da Forster. Beethoven, un'altra voce che conoscevano tutti. Il ragazzo finì, il pubblico applaudì fragorosamente e la regina si protese verso una persona del suo seguito come a condividere l'entusiasmo. Ma quello che voleva dire era che lei aveva 80 anni e nessuno conosceva la sua voce. In auto, sulla via di casa, tutto a un tratto, senza rivolgersi a nessuno in particolare, la regina disse «Io non ho voce». «Per forza», disse il duca, «si crepava, sarà la gola». Era una notte afosa e la regina, contrariamente alle sue abitudini, si svegliò presto e non riuscì a riprendere sonno. Vedendo accendersi la luce nella sua stanza, il poliziotto in giardino, per precauzione, aprì il telefonino. La regina stava leggendo un libro sulle sorelle Bronte e la loro triste infanzia, ma capì che non le avrebbe conciliato il sonno. E cercando qualcos'altro, in un angolo della libreria, vide il libro di Ivy Compton Barnett che aveva preso in prestito dalla biblioteca circolante e che il signor Hutchings le aveva regalato tanto tempo prima. Allora le era parso un po' ostico. Si ricordò che per poco non si era addormentata, quindi adesso forse avrebbe fatto al caso suo. Neanche a parlarne. Il romanzo che ai tempi aveva trovato lento adesso sembrava piacevolmente spedito, sempre asciutto, ma in un modo pungente, e la regina trovò rassicurante il tono sobrio di Lady Ivy, così vicino al suo. La sfiorò il pensiero, di cui prese nota il giorno dopo, che la lettura, fra l'altro, era un muscolo, e a quanto pare lei era riuscita a svilupparlo. Adesso leggeva il romanzo agilmente e con grande piacere, ridendo di frecciatine, neanche battute, che prima non aveva notato. E riga per riga sentiva la voce di Ivy Compton Barnett, piana, severa e saggia. La avvertiva nitida come quella sera le era giunta la voce di Mozart. Sua Maestà chiuse il libro e di nuovo disse forte «Io non ho voce». Nella zona ovest di Londra, dove vengono registrate queste cose, un impassibile dattilografa la trovò una frase strana e disse ad alta voce «Beh, se non ce l'hai tu, bella, non vedo proprio chi altro possa averla». Intanto, a Buckingham Palace, la regina dopo un po' spense la luce e, sotto l'albero di catalpa, il poliziotto richiuse il telefonino. Al buio, la regina rifletté che una volta morta sarebbe esistita solo nei ricordi della gente. Lei, che non era mai stata al di sotto di nessuno, sarebbe diventata pari a chiunque altro. Leggere non avrebbe cambiato le cose. Scrivere, magari sì. Dovendo rispondere alla domanda se la lettura le avesse arricchito la vita, avrebbe risposto di sì, salvo aggiungere con altrettanta certezza che l'aveva anche vuotata di qualsiasi scopo. In passato era stata una donna risoluta che conosceva i suoi doveri e intendeva compierli fin quando possibile. Adesso si sentiva troppo spesso scissa in due. Leggere non era agire, quello era il problema. Anche a 80 anni lei era una donna d'azione. Riaccese la luce, prese il taccuino e annotò: non si mette la vita nei libri, la si trova. Poi si addormentò. Nelle settimane successive la regina fu vista leggere di meno, sempre che lo facesse. Era assorta, quasi distratta, ma non perché stesse pensando alle sue letture. Non si portava più dietro un libro ovunque andasse e i volumi che si erano accumulati sul suo scrittoio vennero rispediti alle biblioteche, rimessi sugli scaffali o sparirono in altri modi. Però trascorreva ancora lunghe ore allo scrittoio, a volte guardando i taccuini e ogni tanto annotandovi qualcosa, pur sapendo sotto sotto che la scrittura sarebbe stata ancora più mal vista della lettura. Così, se qualcuno bussava alla porta, prima di dire avanti, nascondeva subito i taccuini nel cassetto. Scoprì tuttavia che quando scriveva qualcosa, anche se era solo un appunto, era felice come lo era stata leggendo. Ancora una volta si rese conto che leggere non le bastava più. Un lettore non è molto diverso da uno spettatore, mentre scrivere per lei era agire, e agire era il suo dovere. Intanto passava molto tempo in biblioteca, specialmente a Windsor, a sfogliare le vecchie agende, gli album delle sue innumerevoli visite di Stato, il suo archivio, insomma. «Sua Maestà cerca qualcosa in particolare?» chiese il bibliotecario dopo averle portato l'ennesima pila di materiale. «No», disse la regina. «Sto solo cercando di ricordare com'era, anche se non saprei nemmeno dire cosa. Beh, nel caso dovesse rammentarsene, mi auguro che vorrà dirmelo, Maestà, o meglio ancora metterlo per iscritto. Sua Maestà è un archivio vivente». Anche se la regina pensò che avrebbe potuto dirlo in modo più elegante, aveva capito cosa intendeva e rifletté che il bibliotecario era un altro che la spingeva a scrivere. Lo sentiva quasi come un dovere e lei in questo senso non aveva quasi mai sgarrato, almeno finché non aveva cominciato a leggere. Ma un conto era essere incoraggiati a scrivere, un altro a pubblicare. E fino a quel momento nessuno l'aveva incoraggiata nella seconda direzione. La notizia che i libri fossero spariti dallo scrittoio della regina e che un nuovo interesse catturasse la sua attenzione giunse assai gradita a Sir Kevin e a Palazzo in generale. È vero che la puntualità della regina non migliorò e che il suo guardaroba restava imprevedibile. «Quel cardigan lo proibirei per legge», disse la cameriera. Ma Sir Kevin condivideva l'impressione comune che, nonostante il perdurare di tutte quelle manchevolezze, Sua Maestà avesse superato l'infatuazione per i libri e fosse tornata grosso modo se stessa. Quell'autunno la regina rimase a Sandringham per qualche giorno, essendo prevista una visita reale nella città di Norwich. Ci fu una funzione alla cattedrale, una passeggiata nell'isola pedonale e, prima del pranzo all'università, la regina inaugurò una nuova caserma dei vigili del fuoco. Seduta fra il prorettore e il professore di scrittura creativa, la regina rimase leggermente sorpresa vedendo comparire accanto a sé un polso scarno e una mano arrossata a lei ben noti che porgevano un cocktail di scampi. «Ciao, Norman!» «Maestà», disse lui educatamente, e senza interrompersi servì il cocktail di scampi anche al prorettore prima di procedere con il resto della tavolata. «Dunque conoscete Seekins, maestà?» le chiese il professore di scrittura creativa. «Lo conoscevo», rispose lei, un po' dispiaciuta che Norman non avesse fatto strada. Evidentemente era tornato in una cucina, anche se non la sua. «Abbiamo ritenuto», disse il prorettore, «che servire a tavola oggi sarebbe stata una bella occasione per gli studenti. Verranno pagati, naturalmente, e per loro è tutta esperienza». «Seekins», disse il professore, «è molto promettente. Si è appena laureato ed è uno dei nostri fiori all'occhiello». La regina era un po' contrariata dal fatto che, nonostante il suo sorriso smagliante, Norman, nel servirle il bœuf en croûte, sembrasse deciso a non guardarla negli occhi, e lo stesso accade con le poire belle Hélène. E la sfiorò il pensiero che per qualche ragione le tenesse il muso, un comportamento che le era stato riservato raramente, tranne che da parte di qualche bambino o a volte di un ministro. I sudditi, in genere, non tenevano il muso alla regina, non rientrava nei loro diritti. Un tempo sarebbero stati rinchiusi nella torre. Ma le venne anche in mente che qualche anno prima non avrebbe notato affatto cosa faceva Norman o chiunque altro e che se adesso ci badava era perché ne sapeva di più dei sentimenti delle persone e riusciva a mettersi nei panni degli altri. Detto questo, non si spiegava comunque perché Norman fosse così arrabbiato. «I libri sono una cosa fantastica, vero?» disse Sua Maestà al prorettore, che ne convenne. «Alla lunga rendono più teneri», aggiunse, «anche se non vorrei parlare come una bistecca». Il prorettore concordò di nuovo, pur non avendo capito la battuta. Dopodiché mandò a chiamare Norman e la regina, il cui proverbiale ritardo era ormai inglobato nel programma, spese una buona mezz'ora a farsi aggiornare sulla sua carriera universitaria, comprese le circostanze che l'avevano portato all'Università dell'East Anglia. La regina richiese la sua presenza a Sandringham il giorno successivo, perché ora che Norman aveva cominciato a scrivere, poteva esserle nuovamente d'aiuto. In compenso, così su due piedi, la regina licenziò qualcun altro. Entrando in ufficio, Sir Kevin scoprì che la sua scrivania era stata sgombrata. Anche se far studiare Norman era tornato utile, a Sua Maestà non piaceva essere ingannata, e per quanto il vero responsabile fosse il consigliere speciale del primo ministro, fu Sir Kevin a pagare il fio. Un tempo sarebbe finito sul patibolo. Oggi si vide consegnare un biglietto per la Nuova Zelanda con una nomina di presidente onorario dell'Università dell'Otago. Sempre patibolo era, solo più lento. La notizia si diffuse a palazzo e tutti pensarono bene di darsi una regolata. Il richiamo all'ordine aveva funzionato.